E lui è Cesare Cremonini qui su Radio Stonata con Lost in the Weekend, la prima canzone ad aprire appunto l'appuntamento di oggi del viaggio, 14:06 in diretta. Ci colleghiamo con il nostro Flavio Alagia di nonsoloturisti.it che si trova a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Ciao Flavio, buonasera e ben ritrovato, anzi buon pomeriggio Flavio. Ciao Beppe, ma così mi hai sconfessato subito, volevo fare quello che rende con un viaggio rocambolesco tra una parte all'altra in Italia, cioè, hai subito spiattellato che sono a Castel Goffredo in provincia di Mantova, capitale, ricordiamo, della calza, del ping pong e del tortello amaro. Spero che l'assessore mi senta. Infatti, speriamo che... Sì, Flavio? Sì, Beppe, ci sei, ti sento. Sì, sì, io ti sento pure. Non avevo capito cosa avevi detto sul tortello amaro, però comunque va bene. No, niente, infatti sono a Castel Goffredo, ma soltanto perché sono di ritorno da un'escursione, pronto a riprenderne un'altra. Infatti oggi, questo fine settimana, anzi, non avevo un evento in calendario, ma ce ne sono ben tre che ho voluto racchiudere tutti oggi in diretta nel termine, nel titolo Frontiere, che è anche il tema con cui si è aperto l'internazionale a Ferrara di quest'anno, che proprio in questi giorni sta animando città con dibattiti, incontri, eventi internazionali, come appunto la Divista, che è promotrice di questo evento in collaborazione col Comune di Ferrara e con tanti altri partner. Un evento che si è aperto venerdì e io infatti sono andato all'inaugurazione al cinema Apollo di Ferrara con un incontro che appunto ha spiegato questo titolo di quest'anno, Frontiere, perché è così importante, perché è così utile e fondamentale soffermarci a riflettere, cioè dei flussi migratori anche, ma delle differenze che li contraddistinguono e dei tratti che ci mettono in comune con tutti i nostri compagni, fratelli, esseri umani in giro per il mondo. È stato un evento in cui hanno offerto anche un premio. Ogni anno internazionale conferisce un premio a chi si trova a svolgere la professione di comunicatore o giornalista nonostante le difficoltà del paese in cui vive. Il premio di quest'anno è andato a un blogger che nel Bangladesh, nel suo paese, affronta sempre le questioni della secolarizzazione dello Stato. Il Bangladesh è una nazione in tempi recenti dal Pakistan che ha visto una trasformazione molto, molto grave, che l'ha fatto passare da uno Stato abbastanza secolarizzato, quindi in cui religione e forze statali erano tenute separate, a uno Stato sempre più islamizzato. E questo ragazzo di 31 anni era stato già aggredito più volte, aveva rischiato la vita, è continuamente minacciato al punto da essere costretto a trasferirsi in Germania, da dove continua la sua opera di attivismo e di giornalismo di impegnato. Mm-hmm. L'internazionale continuerà anche oggi fino a domenica, e tra i partner più importanti ci sono Medici Senza Frontiere, con cui purtroppo oggi si sono aperte le in TV e sui giornali. Avrei sentito che è stato bombardato per errore un ospedale di Medici Senza Frontiere a Kunduz in Afghanistan. Mm-hmm. Il ministro degli interni afghano riteneva che ci fossero degli terroristi nascosti, le forze NATO l'avevano smentito, ma tant'è che questo bombardamento è partito, non si capisce bene come e perché, ha causato la morte di diversi medici e di decine di pazienti. È l'unico ospedale della regione, dell'area di quest'area dell'Afghanistan, quindi Medici Senza Frontiere, ricordo, tratta indistintamente tutti i feriti e tutti quelli che hanno bisogno di cure, indipendentemente dalla parte in cui stanno, quindi è diciamo che è preoccupante questo cosiddetto errore. È un'organizzazione che non prende addirittura fondi statali da nessuna parte, perché vuole conservare la sua autonomia, la sua indipendenza, e quindi è anche invisa e malvista da molte fazioni territoriali nei territori in cui opera. Okay. Quindi internazionale sabato, per chi passasse a Ferrara, tra l'altro città d'este, una bellissima città di arte e cultura, fino a domenica 4 ottobre. Ok Flavio, ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e ritorniamo ancora e parliamo ancora di Frontiere, che è strettamente attuale la cosa, eppure interessante. Oh, E lui è Jason Deluro qui su Radio Stonata, 14:13 minuti, sempre in diretta. Abbiamo aperto la nostra trasmissione, appunto, come del solito il sabato, con il nostro Flavio Laggio di nonsoloturisti.it. Ci ha un po' raccontato il tema di oggi, che sono le frontiere, però Flavio, fuori onda, mi raccontavi ancora tantissime cose che riguardano le frontiere, quindi vai. Sì, ovviamente non è, come dicevo, non è soltanto Internazionale a Ferrara che mi ha tenuto occupato questo fine, che mi terrà occupato questo fine settimana. Adesso che appena chiudiamo, Beppe, io prendo un treno, il mio trenino, e vado a Desenzano sul Garda, dove si sta con un presidio promosso dal collettivo gardesano autonomo. Perché vado a Desenzano? Ricordo, è sul lago di Garda. Perché ci vado? Perché, come a differenza di come dicono tanti, mentalizzano in qualche modo l'emergenza frontiere, l'emergenza di questi flussi di rifugiati, di immigrati che stanno giustamente riempendo le pagine dei giornali europei in questi giorni, non ci raccogliamo, non manifestiamo per aprire indiscriminatamente le nostre frontiere, per, diciamo, fare un dentro tutti senza alcuna cognizione. Non è questo il motivo di chi si muove in favore, in appoggio dei richiedenti asilo. È un momento per ricordare che tanta gente viene nei nostri paesi, arriva in Europa, arriva in Occidente scappando da guerra, carestia, da fame, situazioni devastanti, che non è giusto, che non vogliamo che diventino loro l'oggetto dell'odio e delle strumentalizzazioni politiche di alcune fazioni. Ci sarà naturalmente anche una festa, ci sarà musica, ci saranno incontri, ci sarà dialogo, è un momento aperto a tutti, ed è un momento in cui anche chi come me viaggia per lavoro o per passione si dovrebbe ovviamente riconoscere istintivamente, perché non c'è frontiera, non c'è dogana al giorno d'oggi, completamente dalle popolazioni che sono invece soggette a queste disgrazie, a queste calamità. Uh-huh. E per questo, Desenzano, la festa comincerà alle 16 per chi fosse nei paraggi, e si protrarrà per tutto quanto il pomeriggio. E poi chiudiamo il fine settimana con un altro trenino che mi porterà invece a Brescia, una situazione molto più pacifica e distesa, dove in occasione del Festival Supernova, 7.000 miglia lontano, che l'associazione di Giuliano Radici, con cui sono stato anch'io in Africa quest'anno, a Brescia, dicevo, in Piazza Vittoria alle 9 di sera inaugureranno l'installazione videofotografica del progetto che ha portato giornalisti, fotografi, videomaker durante tutto l'anno in giro per il mondo per raccogliere fondi per le associazioni umanitarie che si impegnano nelle varie parti del mondo. Un'installazione che mi hanno detto già chi dei miei amici è andato ad aiutare a montarla, è veramente spettacolare, video, foto, un momento di sintesi di tutte le esperienze di questo incredibile progetto. 7.000 miglia lontano, ricordo, era diviso in 7 tappe, ogni tappa prevedeva un team diviso in 2 macchine, sempre le stesse macchine che hanno portato i ragazzi prima dall'Italia fino al Kazakistan, poi in Cina, poi sono stati portati in nave le macchine in Canada, hanno attraversato tutto quanto il continente delle due Americhe, poi siamo arrivati noi con altri 5 malcapitati che si sono dovuti subire la mia guida, che li ha portati da Città del Capo a Malindi, un evento che abbiamo anche avuto il piacere di raccontare, infatti, in diretta su non solo turisti.it e anche in diretta su Radio Stonata, Flavio, quando ci riusciva ad ottimizzare il collegamento. Ce la permetteva anche in diretta su Radio Stonata, certamente. Flavio, rimani un altro po' con noi e poi ti lasciamo al tuo treno, o devi subito correre per il treno? No, rimango ben, okay. Per te. Un po' di pubblicità, dai. Metti insieme il tuo bagaglio, riempilo di ricordi, speranze, parole, storie vissute e storie da vivere. Prova a ritornare, perché il ritorno dà senso al viaggio. Il viaggio. Edit qui su Radio Stonata con Red B, l'ha appena disannunciato la voce che state ascoltando in questo momento qui su Radio Stonata. Non parlo della mia parola, della voce della cantante. 14 e 24 minuti, sempre in collegamento qui con Flavio Alagia di nonsoloturisti.it. E Flavio, come ormai è diventato un'abitudine, una consuetudine, chiudiamo il collegamento con te, ma intorno alle 14.45 ci viene a trovare un collaboratore o una collaboratrice di nonsoloturisti.it, e quindi direi proprio di introdurci tu chi sarà alle 14.45 a venire qui ai microfoni di Radio Stonata e di parlarci appunto della loro esperienza con nonsoloturisti.it. Sì, più tardi avremo il piacere di sentire la nostra Sara Perico, che negli ultimi mesi soprattutto si è resa preziosissima a questa zappera digitale che nonsoloturisti.it. Sara è stata di recente in Liguria, nel Parco dell'Aveto, che è un territorio nell'entroterra di grande bellezza, che si è stato valorizzato ultimamente soprattutto grazie a una forma di ricezione diffusa, forma di accomodamento diffuso, che sarebbe queste strutture che non si concentrano soltanto in un'unica premiano, ma coinvolgono tutto quanto il territorio. È stata lì appunto in Liguria e adesso lo faccio raccontare a lei. Quindi proprio chiudiamo il collegamento con te, ma prima di chiudere ci arrivano dei saluti, quindi dobbiamo fare rigorosamente qui su Radio Stonata. Ci arrivano i saluti dalla nostra amica Mary, che dice: buon pranzo da qui, da Augusta, dove splende il sole, il mare è un po' mosso, quindi ci portano anche le previsioni meteo. Se vi trovate ad Augusta potete andarci tranquillamente, perché il mare è mosso, però c'è uno splendido sole. Io Flavio ringrazio te per averci raccontato appunto le frontiere oggi, e soprattutto, se volete, pomeriggio sei a Brescia, no? Il pomeriggio sono a Desenzano e la sera a Brescia. Ok. Brescia, tra l'altro, ricordo qui si colloca l'installazione di 7000 milioni Supernova, che è il festival dell'innovazione a Brescia fino alla domenica 4 ottobre. Ok, quindi se siete nelle vicinanze di Brescia questa sera andate, che trovate Flavio, tutti gli amici di 7000 miglia lontano. Grazie Flavio, ci sentiamo sabato prossimo, ok? Grazie a te Beppe, ciao a tutti, buona giornata.